Siamo tutti belli questa mattina, perché ci ha convocati qui l'autore della gioia. Non siamo stati convocati dal caso, una combinazione fortuita, siamo qui perché... No, non si muove foglia che Dio non voglia. Ci ha convocati qui il Signore e formiamo la sua assemblea, formiamo il suo popolo, formiamo la sua famiglia, per la quale Dio ha creato tutto quello che possiamo vedere con gli occhi, toccare con le mani, sentire con l'udito, gustare con il nostro palato. E tutto quello che con gli occhi non riusciamo a vedere, il più non lo riusciamo a vedere. Tutto questo universo, questo creato stupendo, fatto di cose piccole, piccole e di cose grandissime, tutto ha organizzato perché noi oggi fossimo qui. Avete studiato qualche cosa? Basta anche soltanto aver sentito qualche cosa. Tutto il creato è sostenuto da due grandi leggi. La legge dell'attrazione universale, per cui tutto il creato è collegato una cosa con l'altra, e la gravitazione, per cui ogni essere nel creato sta al suo posto e svolge un ruolo. Gravitazione e attrazione. E se mancassero queste due leggi che non abbiamo inventato noi, ma che ha inventato lui, noi non potremmo essere riuniti qui. Perciò, se siamo qui, è perché nel cielo ci sono le stelle. Oh, sappiamo qualche cosa, i contadini soprattutto sanno qualche cosa della luna, vero? E delle varie fasi della luna. Per cui bisogna seminare in quel momento stabilito dalla provvidenza attraverso la luna e i suoi movimenti. Perché anche la luna fa parte di questo grande universo sorretto dall'attrazione e dalla gravitazione. Se non ci fossero queste due grandi leggi, noi non riusciremmo a stare in piedi, e ne manco riusciremmo a star seduti, e ne manco riusciremmo ad alzare le braccia, ne manco riusciremmo a batter ciglio, neanche riusciremmo ad aprire la bocca. Ma pensate, e da quanto tempo è che esistono a questo mondo le leggi della natura, i fenomeni della natura? Da ieri sera? No, nessuno scienziato ancora è riuscito a dirci quanti anni ha l'universo. E sì che si arrovellano la testa, perché tutti ambirebbero dire: io ho scoperto quanti anni ha il mondo. Un'ambizione, no. In principio Dio creò tutto, in principio, e così incomincia la Sacra Bibbia, quel grosso libro. In principio Deus creavit celum et terram, e questo principio è un segreto. E d'altronde, ditemi, voi sapete quando avete avuto principio? Io che ho studiato, anche voi... Qui c'è anche qualche medico studiato. No, non lo sappiamo. Dobbiamo fidarci dei nostri genitori che potranno dirci qualche cosa. Ecco, sei venuto alla luce il tal giorno, forse anche ricorderanno la tal ora, la mamma specialmente, ma il nostro principio è un segreto di Dio. Dio è sempre stato. Lui non ha mai avuto principio. Ma dopo di lui tutto ha avuto principio, da lui. Tutto. Quindi il nostro trovarci qui non è per caso, per combinazione. Come ci si può trovare insieme in un pullman, in un aereo, in una piazza, in uno stadio, al mercato? Ci siamo trovati insieme, in montagna, al mare. No, non si muove foglia che Dio non voglia. È una delle cinque vie di San Tommaso d'Aquino. Dopo Sant'Agostino è la mente più eletta che mai sia esistita nel cristianesimo. Non si muove foglia che Dio non voglia. È un proverbio tanto vecchio che abbiamo imparato sulle ginocchia di nostra madre. Ma è altissima filosofia, altissima teologia. Non si muove foglia che Dio non voglia, vuol dire che nessuna creatura esiste che non sia mossa da Dio. Pensate, i capelli sulla nostra testa, pochi o tanti, non li abbiamo inventati noi. E quando gira il vento e abbiamo lasciato a casa il cappello, la nostra chioma è presa dal vento, si muove, non si muove un capello sulla nostra testa che Dio non voglia, perché Lui ha inventato e la testa e i capelli e l'aria e il vento. Tutto è mosso da Dio. La vita è una festa organizzata da Dio da secoli, da millenni. Non una festa improvvisata, sai, arriva uno a trovarti all'ultimo momento e tu gli fai gli onori di casa. Sarà una tazzina di caffè, sarà un bicchierino di grappa, di cognac, se c'è freddo, gli onori di casa. Da quanto tempo è che Dio ha organizzato, organizza questo nostro incontro? Dio da quando è Dio? Da sempre. Da sempre.